Linee d'ombra di Matteo Caccia. No, è stato, almeno che io sappia, l'unico gesto di ribellione. Quindi era come voler dire, punto, guarda che ci sono e posso dire la mia e non è che dico sempre sì, ecco. Improvvisamente i suoi strilli vengono coperti dal rumore dei vetri infranti. Volano vetri in ogni dove e i calci proseguono fino a quando non rimane più nemmeno un solo vasetto integro. Storie di vasetti di conserva e del vulcano più famoso di sempre in una puntata che si intitola Eruzioni. Che succede? Dove sono finiti tutti? Elkos! Com'è Elkos? Elkos! No. Elkos! Ma che vuol dire? Erezione! Erezione! Erezione! Erezione! Sì! Vai. No! Ah. Eruzione! Eruzione! Sì. È tratto da I sogni segreti di Walter Mitty, questo pezzo che vi abbiamo fatto ascoltare in apertura di questa puntata di Linee d'Ombra. Walter Mitty è Ben Stiller ed è un tizio che lavora per la rivista Life, per Life Magazine, negli Stati Uniti. È un uomo con una vita molto molto normale, molto ordinaria, ha dei grandi sogni che però fa solo, appunto, solo nella sua testa, e poi a un certo punto deve, se non ricordo male, inseguire una fotografia, un negativo che è sparito e che serviva per la copertina di Life. Lui si occupa di quella cosa lì e per via di questa ricerca esce finalmente dal suo ufficio, esce dagli Stati Uniti e si ritrova in Islanda. Ma si ritrova in Islanda, insomma, ha una serie di avventure, tra le altre si ritrova in Islanda esattamente il giorno dell'eruzione dell'Eyjafjallajökull, che è quel vulcano che 10 anni fa oggi, cioè esattamente 10 anni fa in questa giornata, cioè il 15 di aprile del 2010, eruttò creando una nube di ceneri vulcaniche che aveva creato degli enormi disagi in tutta Europa, per cui tutti gli spazi aerei erano chiusi, c'erano degli aeroporti che sono stati blindati per giorni e giorni. Molti di noi che ad esempio amano il calcio o odiano il calcio, dipende dal punto di vista, si ricordano che una delle mille delle mille coincidenze che permise all'Inter di vincere la Champions League in quell'anno, nel 2010, furono anche l'eruzione del vulcano in Islanda, perché il Barcellona doveva venire a giocare a Milano, doveva, era obbligato a farlo, ma non poteva prendere un aereo, quindi venne con un autobus da Barcellona a Milano. Ora, non che la sconfitta del Barcellona in quella partita sia dovuta al viaggio in autobus, però sicuramente ha aiutato, insieme a molte altre cose che si sono incastrate perché accadesse quella cosa epocale, perché appunto succede una volta ogni 45 anni, se va bene, lo dice uno che tifa esattamente quella squadra lì. Ma tant'è, vi dicevo, questo appunto è un giorno che è un anniversario, 10 anni fa esattamente eruttava quel vulcano. Qualcuno avrebbe da dire manca solo questo, infatti non accadrà, perlomeno non accadrà in questi giorni. Noi, prima di cominciare a raccontare, però, oggi vogliamo farvi sentire una storia di rinascita. Alla fine un'eruzione è una storia di rinascita, perché il vulcano, come sentiremo oggi in questa puntata, dopo 187 anni, se non ricordo male, si risveglia e boom, butta fuori tutto. Ma noi stiamo raccogliendo storie di rinascita, le stiamo raccogliendo grazie al nostro profilo Facebook. Tra l'altro abbiamo scoperto che io fino ad oggi ho detto una baggianata, cioè io ero convinto che i messaggi audio su Facebook potessero durare solo un minuto. Non è vero, quella cosa è su Instagram. Su Facebook voi potete aprire la pagina Facebook di Linee d'Ombra, andare sui messaggi, invia un messaggio e selezionare il microfonino e lì parlare per quanto tempo volete. Che ora, se diciamo, per quanto tempo volete significa attorno ai 3-4 minuti massimo, perché poi oltre diventa veramente complicato ridurre la storia in modo che sia ascoltabile. Ma se fate come il prossimo ascoltatore e ci raccontate di un momento difficile dal quale siete usciti, che vi ha portato a rinascere, noi siamo molto molto felici. Facebook, Linee d'Ombra, messaggi, messaggio vocale e voilà. Ciao Matteo, ho 60 anni, vivo sul lago di Garda, nella provincia di Brescia. E per ben 53 di questi 60 anni la mia vita è stata una salita continua verso piccoli e grandi successi professionali, personali, la vita familiare, i figli, fino a quando nel 2013 succede che tutto quello per cui avevo lavorato e la tranquillità che pensavo di essermi costruita di colpo frana sotto i miei piedi nel buco della crisi che coinvolge anche l'azienda per cui lavoravo. Avevo una solida professione, pensavo, una posizione economica solida, ero contento e pensavo di essere arrivato al punto in cui avrei maturato e vissuto i frutti di tutto quel percorso trentennale della mia carriera professionale. E quindi mi ero costruito un mondo che non so neanche ora più come definire, un mondo in cui vedo ancora tanti viverci dentro fino al collo, convinti di avere raggiunto o di possedere tutto quello che di bello, positivo si possa ottenere nel mondo materiale. È stato come precipitare dal 30° piano e schiantare a terra e avere la sfortuna di rimanere vivo, perché per quanto tu rimanga vivo ti porti ammaccature pesantissime che si accumulano dentro l'anima. Però grazie a quelle ammaccature ho ragionato su tutto il mio vissuto, ho rivisto le vicende familiari, la storia con mia moglie, che fortunatamente è a mio fianco, e la vita dei miei figli, il senso di responsabilità, anche i sensi di colpa, vissuti con grande costernazione. Quando ho vagato per 7 mesi alla ricerca di un'attività che potesse in qualche modo somigliare a quella che avevo sempre fatto, con obiettivi economici che mi consentissero di continuare il percorso che avevo intrapreso, fino a rendermi conto che questo non sarebbe stato più possibile. 7 mesi di crisi profonda, una grande depressione, sofferenza infinita, pensieri terribili, ma soprattutto il senso di colpa per come si stavano evolvendo le cose nei confronti della mia famiglia, di mia moglie, soprattutto dei miei figli e di chi mi stava vicino. Poi, piano piano, quando tutto sembrava perso, ho raccolto le briciole di me stesso, mi sono fatto aiutare, c'è stato quello un grande successo e ho ricominciato, mi sono rimesso in discussione, ho fatto cose che non avrei mai pensato di fare. Ho messo tutto quello che avevo in discussione per ricominciare e ricostruirmi un'opportunità che altri non avrebbero potuto sicuramente darmi. Avrei potuto fare qualcosa di più modesto, ma mi sono rifiutato. Ho deciso di ricominciare e di ripartire da zero. E adesso sono praticamente 6 anni che ho intrapreso questo percorso dal quale ancora non sono uscito, non penso di essere nemmeno a metà strada, ma sono convinto più che mai dell'obiettivo che voglio raggiungere. Con un po' di ottimismo e con un po' di fortuna, conto proprio di farlo. Se avete voglia di farlo anche voi, vi ripeto, passate da Facebook, andate nei messaggi e mandateci in audio, con un messaggio audio, una vostra piccola o grande storia di rinascita. Ora invece cominciamo a raccontare in una puntata che si intitola Eruzioni di una di quelle eruzioni non vulcaniche ma casalinghe, che capitano poco e raramente, ma quando capitano, capitano. Adriano, il mio babbo, è un uomo mite, sempre incline al compromesso e ad accondiscendere alla linea tracciata dal colonnello, Luisa, la mamma, dal carattere forte e deciso con la quale ha sempre fatto gioco di squadra. Adriano, come molti buoni, si arrabbia poco, ma quando si arrabbia? Nella mia infanzia ricordo solo una manciata di casi in cui babbo ha avuto scatti di ira nei miei confronti o in quelli di mio fratello Luca. Quando succedeva, non era più lui. Quando papà tirava fuori la cinghia, avevamo tutti paura. Non perché le conseguenze di quegli inseguimenti per casa, cinta alla mano, fossero violenti. Non si andava oltre a un paio di scudisciate sulle chiappe, il cui effetto alla peggio sarebbe svanito in un paio di giorni, ma perché il suo viso si trasformava, assumendo i connotati di una persona fuori controllo. Non è che succedesse spesso, sarà successo 7-8 volte che io mi ricordi. però in quei momenti lì da Dr. Jekyll diventava Mr. Hyde, e quindi aveva una rabbia in volto che non era papà, insomma, non era babbo, non eravamo abituati a vederlo così. Teneva la cinghia piegata, diciamo, a formare una specie di laccio, e con quella dava sul sedere, quindi se riusciva a beccarci, insomma, a incantonarci. La mamma usava il battipanni di Rimini, che era molto più diretto ed efficace. Questi scatti di rabbia assai rari erano sempre e comunque rivolti contro noi figli e mai nei confronti di mamma, né a lei direttamente, né verso oggetti o situazioni a lei riconducibili. Fu così per tanti anni, fino a quella fatidica mattina di fine anni 90, quando io vivevo ancora in casa con i miei. Quel giorno, mi pare fosse un sabato mattina, il colonnello aveva disposto che il babbo dovesse portare in cantina alcuni barattoli di vetro vuoti, il resto di conserve, marmellate e altro che era stato accumulato nel corso di giorni sul terrazzo. Mamma li aveva disposti in alcuni sacchetti di plastica bianchi davanti alla porta d'ingresso di casa. Lo aveva fatto al mattino presto. E poi, ad intervalli di tempo regolari, sollecitava Adriano ad adempiere alla sua mansione, perché quell'elemento di disordine turbava lo stile della caserma. Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. That will break us up again. Goodbye, my darling. Hello, Vietnam. A hill to take, a battle to be won. Kiss me goodbye and knight me while I'm gone. America has trouble to be stopped. We must stop communism in that land, our freedom will start slipping through our hands. And pray someday the world will learn that fires we don't put out will bigger burn. We must save freedom now at any cost, or someday our own freedom will be lost. Il babbo, assorto in altri pensieri e innervosito da queste continue richieste, a un certo punto comincia ad inveire contro il colonnello e le sue asfissianti pretese di ordine. Vedo improvvisamente in lui quella stessa faccia terrificante che ricordavo in gioventù quando perdeva le staffe. Questa volta però non si dirige verso la cinghia, ma si volge alle borse piene di vasi di vetro e con una potenza degna di Roberto Baggio comincia a calciare i sacchetti che avrebbe dovuto portare via. Improvvisamente i suoi strilli vengono coperti dal rumore dei vetri infranti che riempie il corridoio, volano vetri in ogni dove e i calci proseguono fino a quando non rimane più nemmeno un solo vasetto integro. Quel moto di rabbia scatena in me un'improvvisa ilarità. che non riesco a trattenere, a tal punto che mi ritrovo sdraiato in cucina a ridere come se non ci fosse un domani, gioendo finalmente per quel gesto di ribellione da troppo tempo atteso, e incitando il babbo a terminare il lavoro. Ma in quel momento lì per me è stato un moto di liberazione, come se avessi detto: allora sotto sotto c'è sempre stato il babbo ribelle o con una sua forte indipendenza. Probabilmente anche il loro fatto di fare molto squadra era dovuto alla situazione, perché mio fratello aveva un carattere molto forte e spesso andava a litigare con loro, si creavano delle situazioni di tensione, per cui il fatto di fare gioco di squadra era quasi obbligato. Quindi andando via di casa lui era come se fosse caduto il muro di Berlino, probabilmente, e c'era spazio per delle manifestazioni che, come quella, prima non ci saremmo mai sognati. La reazione della mamma, del colonnello, fu ancora più sorprendente. Rimase attonita e sbigottita, nel silenzio più totale, sorpresa da quel gesto improvviso e indispettita dal mio comportamento. È come se si fosse improvvisamente resa conto di avere esagerato e, provando imbarazzo, cercava di sfogare la sua frustrazione su di me, cercando di distogliere l'attenzione da quanto stava accadendo in corridoio. Fu quello un caso isolato di ribellione del babbo che ricordo con grande piacere. Non successe più, almeno che io sappia. Oggi Luisa e Adriano sono nonni di 5 nipoti e dopo più di 50 anni di matrimonio vanno avanti insieme non senza qualche difficoltà di comprensione e sopportazione reciproca. È come se la loro pelle si fosse assottigliata con l'età e basti un piccolo sfregamento dei loro corpi per irritarsi. Le piccole schermaglie tra loro sono diventate elemento di intrattenimento per tutti i nipoti che ridono dei loro bisticci come di una sitcom degli anni 80. Poi la cosa che a me piace di più della storia che ci ha mandato Riccardo è certo la reazione del babbo, la reazione sua, ma è soprattutto il fatto che lui dice: no, ma papà è sempre stata una persona pacata. Certo, ogni volta tirava fuori la cinghia e allora non si scherzava. Pronto, ciao Riccardo, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Senti, di fatto se è veramente, come dire, appartiene ad un'altra generazione questa storia, nel senso che quando tu dici non si andava oltre a un paio di scudisciate, è una roba che detta oggi sarebbe da arresto, probabilmente, no? Certo. Invece lo sappiamo ormai, non è la prima storia che raccontiamo di questo tipo, c'era una sorta di accettazione di quel tipo di rapporto genitori-figli. Detto questo, però, tuo papà Adriano era ed è, mi auguro, una persona che continua a essere pacata, dico bene? No, papà è sempre stato pacato, ma gli episodi in cui tirava fuori la cinghia sono assolutamente sporadici, quindi ne ricordiamo 7-8 volte tutta la nostra infanzia. Che comunque continua a farmi ridere, 7-8 volte tira fuori la cinghia, è tantissimo, però... In 20 anni. Certo, 50, certo. 50, 50. Tu hai figli, Riccardo? Io ne ho tre, sì. Ne hai tre e non usi questi metodi. Ogni tanto ormai mi possono picchiare loro perché sono grandicelli, però non sono mai andato oltre a qualche sculacciata. Ah, ok. Uno schiaffone ben assestato, cioè ci sono delle persone che probabilmente in questo momento saranno avendo delle convulsioni. Se mi ci fai pensare bene. No, lasciamo stare. Senti Riccardo, quanto tempo fa succedeva questa storia? Tanti, quasi 30 anni fa. Una ventina. Attorno al 99-2000, mio fratello si era appena sposato ed ero l'unico figlio rimasto in casa. Senti, ma innanzitutto tuo papà e tua mamma stanno bene, sì? Sì, stanno bene, compatibilmente con l'età e con gli acciacchi. Senti, quando tuo papà comincia a prendere a calci questi vasetti di vetro e tu hai questa reazione, cioè e tu ti metti a ridere, lui come la vive? Chiaramente tua mamma se la prende, lo capiamo subito, perché è come dire, stai sottostimando il valore di quello che succede, no? Se ti metti a ridere di una cosa la prendi in giro. Ma tuo papà se ne accorge, semplicemente continua nel suo intento distruttivo? No, lui continua nel suo intento distruttivo, come appunto con lo stesso sguardo che aveva quelle poche volte che prendeva in mano la cigna. Quindi poteva esserci il nulla attorno a lui, avrebbe continuato. Senti, e invece tua mamma, come dire, era consapevole di essere una sorta di generalessa, no? Un colonnello? Sì, ma il colonnello è un po' rigido, non è cattivo, però ha l'interesse di mantenere tutte le cose sempre in ordine e con il giusto tono di organizzazione. Quindi, cosa ha fatto tuo papà nella vita? Mio papà ha fatto, diciamo, tanti lavori, è farmacista, ma ha insegnato alla scuola media, ha fatto tanto, insomma. E tua mamma era a casa? Mia mamma lavorava in amministrazione, da quando noi avevamo cominciato ad andare alle scuole medie, lei aveva cominciato a lavorare, gestiva la contabilità di un'azienda. Senti, tu invece che cosa fai, Riccardo, nella vita? Io sono un commerciale nell'ambito del prodotti naturali, fitofarmaci, integratori. Okay. E vivi a Bologna, giusto? Vivo a Bologna, sì. Quindi in questo caso sei chiuso in casa, stai facendo smart working oppure vai in giro saltuariamente quando puoi? No, sono chiuso in casa, ligio al dovere, lavoriamo con i clienti, soprattutto organizzando delle videoconferenze, dei corsi di aggiornamento, insomma. Okay. Cerchiamo di inventarci il lavoro in qualche modo. Giustamente. Riccardo, ti ringrazio davvero per la storia e per la chiacchierata. Stai in salute e ci sentiamo presto. Quando vuoi mandaci una storia. Grazie, è un piacere ascoltarti. Eruzioni si intitola la puntata di oggi e dopo la storia di Riccardo, ma soprattutto la storia di Adriano e di sua moglie Luisa, di Adriano il colonnello, come la chiama lui, dopo la loro storia, ora diamo un attimo la linea alle borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui con altre storie di eruzioni. Linee d'ombra. La seconda storia di oggi, dopo l'eruzione del papà di Riccardo, è quella che arriva invece da un vulcano vero e proprio. Arriva da un vulcano con un nome abbastanza impronunciabile, ma che esattamente 10 anni fa, oggi, è un anniversario di fatto, è diventato noto a tutto il mondo. Perché per via delle polveri che lanciò nel cielo, la vita di questa parte di mondo fu per un breve periodo stravolta. La sua storia l'abbiamo trovata in un bellissimo libro che si intitola Il libro dei vulcani di Islanda, pubblicato da Iperborea e scritto da Leonardo Piccione, che è un ragazzo pugliese che per 6 mesi all'anno vive in Islanda. Ed eccola la sua storia. State con noi. Nessuno dava troppo peso al vecchio Eyjo nella lista d'attesa dei vulcani attivi. Certo, Helga sospettava che il colosso che aveva reso Nupakot, la fattoria con il clima migliore di Islanda, non sarebbe rimasto per sempre inerme. Un giorno avrebbe voluto dire la sua, però confidava che si sarebbe trattato di un tempo molto lontano. La geologia se la ride della breve vita umana. Mai avrebbe pensato Helga che la diga di rocce che proteggeva il suo cielo dalle correnti gelide del nord si sarebbe trasformata da alleata a minaccia di morte nel corso del battito di ciglia della sua esistenza. Nel 2010, dopo 187 anni di inattività e diversi mesi di agitazione sismica, l'Eyjafjallajökull si destò. Era il 20 marzo. La primavera si era rivelata solo ai ruminanti. Per loro è il tempo tra il fieno e l'erba, quello in cui il primo è esaurito e la seconda non è ancora spuntata. Talvolta è un periodo molto molto duro qui in Islanda. Agli esseri umani la fine dell'inverno fu annunciata invece dal magma. Emerse da un crinale roccioso poco a est della calotta glaciale, trasformando il passo dei 5 cippi in un catino gorgogliante di magma. Per 3 settimane l'eruzione precedette Gentile, una delle più sceniche colate che gli islandesi ricordassero nella loro vita. La luce del giorno esaltava il fiotto arancione, di notte i bagliori dell'aurora boreale contornavano di verde gli zampilli. I fotografi scattarono foto mozzafiato, fin troppo. 2 di loro si avvicinarono oltremodo al luogo dell'eruzione e quando rimasti senza benzina uscirono a chiedere aiuto, freddo e gas tossici li uccisero. I corpi furono trovati ad alcuni chilometri di distanza uno dall'altro, in direzioni opposte rispetto all'automobile. Il 13 aprile, però, tutto cambiò. Esaurito il suo deposito accumulatosi sotto il fianco est, il vulcano si attivò nel suo cratere sommitale. Il giorno successivo cominciò la seconda fase dell'eruzione, quella subglaciale. Risalendo, il magma sciolse 2 secoli di noia e freddo al ritmo di 400-500 metri cubi di ghiaccio al secondo. L'acqua fece esplodere la lava in alte colonne di detriti di ogni dimensione, grandi come frigoriferi o minuscoli come schegge di specchi rotti. A valle Helga udiva gli scoppi e benediceva il vento che indirizzava il diluvio di cenere a sud-est, verso gli aeroporti di mezza Europa. In una settimana furono cancellati circa 100.000 voli da e per il continente, con imponderabili conseguenze su eventi di ogni tipo in corso sul pianeta. I grandi del mondo annullarono la loro partecipazione ai funerali del presidente polacco, appena deceduto in un incidente aereo. Le famiglie reali di tutta Europa rinunciarono ai festeggiamenti per il 70° compleanno della regina di Danimarca. Con le loro composizioni costrette a marcire per giorni negli aeroporti, numerose impiegate dell'industria floreale kenyota persero il lavoro. Il Barcellona e il Lione, semifinaliste della UEFA Champions League, furono costrette a raggiungere le sedi delle rispettive gare di andata a Milano e Monaco di Baviera in autobus. Dopo due giorni, un improvviso cambio di direzione del vento orientò la cenere verso valle. Helga ebbe giusto il tempo di radunare le pecore e rinchiudere i cavalli, dopodiché le stalle scomparvero dentro una nube di ciniglia. Dal cielo nevicavano falde marce. Non si vedeva nulla a un palmo, gli uccelli sbandavano come pipistrelli impazziti. A un certo punto tutti gli agricoltori dell'area vennero evacuati e così anche lei, anche Helga. Le fu consentito di tornare alla fattoria ogni due giorni soltanto per sfamare le bestie e provvedere ai nuovi nati, e sempre con una mascherina antipolvere a coprire naso e bocca. Nonostante i suoi sforzi, le morirono oltre 10 agnelli nel giro di pochi giorni. Su Nupakot era calata una notte lunghissima. Finì due mesi dopo. Lo strato di antracite che aveva sepolto la fattoria si fece fango quando cominciò a piovere e diventò calcestruzzo quando smise di piovere. Helga tornò a Nupakot, la sua fattoria. Si dice che certe volte l'unica cosa sensata da fare è accettare gli umori del creato e assecondarli. Molto presto l'erba avrebbe ripreso a crescere più verde di prima e i detriti vulcanici si sarebbero rivelati un eccellente fertilizzante per i pascoli. Quando la vita fu tornata alla normalità, una troupe della BBC volò in Islanda per intervistarla, Helga, la quale, sorridente, rispose alle domande cavalcando nell'aia verso la spiaggia, insieme alla reporter. «Non temi che le tue vie respiratorie siano state danneggiate dalla cenere?» le chiese. «Vorrà dire che avrò una buona scusa quando non sarò più in grado di correre veloce come un tempo», rispose. «E se il vulcano erutta di nuovo?» le chiesero. «Se il vulcano erutta di nuovo, sarò più pronta. Non vado via. Sono islandese». And our love, it will fade, but we know that it was there. We can make it reappear. where they first met. We take them back, but now they are broken and start to slowly forget. Questa storia, insieme a molte altre storie, sono presenti in questo libro molto molto interessante che si chiama proprio Il libro dei vulcani d'Islanda. In Italia è pubblicato da Iperborea e l'ha scritto Leonardo Piccione. Leonardo Piccione è uno scrittore, evidentemente, è un autore, è un giornalista, scrive anche cose molto molto interessanti di ciclismo, e se per caso vi va di seguirlo, ad esempio sul suo profilo Instagram, trovate delle foto meravigliose dell'Islanda, in cui credo che si trovi proprio in questo momento. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra per parlare dei vostri diari della quarantena. Quante volte, ascoltando le nostre storie, ti è capitato di pensare: anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è successo, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un momento di passaggio, un confine tra chiaro e scuro, tra luci e ombre. Quando ti sei innamorato, quando hai scelto di cambiare le cose, quando da ragazzo un avvenimento anche piccolo ti ha segnato per sempre. Piccoli confini, sottili linee d'ombra che hai varcato. Scrivilo e spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. A Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà. Sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da un centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura, da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. Linee d'ombra. Quando vi chiediamo di mandarci i vostri diari della quarantena, noi ci immaginiamo di poter guardare dentro casa vostra. Però, lo abbiamo già detto, lo abbiamo già anche raccontato, le storie che ci arrivano non sono solo storie dall'interno delle case, perché molti di voi là fuori non possono permettersi di stare in casa per mille motivi, uno dei quali può semplicemente essere che il vostro lavoro è necessario ed è necessario che siate quindi sul territorio, o semplicemente perché è un lavoro che non potete fare da casa. Questo è proprio il caso, perché la storia di Paolo è la storia di una guardia giurata che ha bisogno di stare in giro, di stare per strada e di starci anche e soprattutto di notte. È una storia che non riguarda esattamente lui, riguarda un suo collega, però per come questo suo collega la condivide via radio con tutti gli altri, diventa una storia di tutti, perché racconta di una persona anziana che si è persa, e quella persona anziana potremmo essere noi, potrebbe essere un papà, potrebbe essere un nonno, ed è questo il motivo per cui le storie delle persone sono storie di tutti. Caro Matteo, sono una guardia giurata del nord della Toscana. Ti voglio scrivere una piccola storia che in questo momento merita di essere raccontata, secondo me. La mia storia riguarda le difficoltà che molti anziani stanno vivendo in questo periodo di emergenza Covid. Il fatto di cui vi voglio raccontare è successo la scorsa notte durante il nostro servizio di controllo sul territorio. Le nostre pattuglie sono in costante collegamento fra di loro e con la nostra centrale operativa, che dispone e dirige la nottata. Circa alle ore 3:30 del mattino un collega richiama la centrale avvisando di aver incontrato per strada, in un posto fuori mano, naturalmente isolato, una persona anziana che risultava smarrita, confusa e spaventata. Il collega chiede l'intervento delle forze dell'ordine per cercare di capire le generalità e la provenienza di questa persona. Chiedere documenti o generalità fuori dalle proprietà private da noi controllate non è consentito, pertanto si rendeva indispensabile l'intervento di un pubblico ufficiale. Nell'attesa che qualche pattuglia della polizia arrivasse, il mio collega rimaneva in costante contatto con la centrale e naturalmente il collega della zona vicina si offerse immediatamente per un supporto, ma l'anziano si dimostrava tranquillo, cooperativo, per quanto credo che non si rendesse assolutamente conto di chi lo stesse aiutando e perché. Nel frattempo il collega lo aveva fatto sedere su una panchina e gli era stato vicino, confortandolo, parlandogli con la speranza che tra le parole sconnesse uscisse qualche informazione importante. Il vecchietto parlava di figli, figli che lo avevano abbandonato, di una casa che non si ricordava più dove fosse e di una signora che lo accudiva. Intanto il tempo passava, la notte sempre più silenziosa e buia, delle volte rallenta le lancette dell'orologio. Tutti noi, in giro nelle nostre zone di competenza, eravamo lì, attenti e ansiosi di ricevere per radio la comunicazione del collega che avvisava dell'arrivo della polizia. Il tempo però passava ancora. Il collega aveva chiesto di nuovo alla centrale operativa di contattare il commissariato per sapere quanto mancasse all'arrivo della pattuglia. Appena possibile, fu la loro risposta. Intanto ascoltavamo per radio quello che il collega ci faceva sentire, lasciando per qualche istante il ponte aperto. Così riuscivamo a capire poche significative parole, come «venga qui, si sieda, stia tranquillo, tra poco si risolverà tutto». Mi sono trovato anch'io in quelle condizioni. Diverse volte ho incontrato persone anziane confuse per strada, oggi però è diverso. Oggi siamo in una situazione eccezionalmente drammatica, dove tutti sono costretti a rimanere a casa, dove spesso all'interno c'è più buio che per strada, e quindi potevo assolutamente immaginare quello che stava passando il collega, che poi aveva sicuramente anche la pressione del lavoro da portare avanti, del far fronte al suo impellente incarico notturno. Sentivo dentro di me l'agitazione e il nervosismo del collega, come se al suo posto ci fossi io. Era in fondo preoccupato per un uomo che poteva essere suo padre, mio padre. Finalmente, dopo quasi 30 minuti, spezzò la frase del suo nuovo sollecito alla centrale con la frase «Sono arrivati». La storia finisce poco dopo, quando il collega, sempre per radio, comunica che sono riusciti a risalire al nome della persona e a rintracciare la sua badante, che sarebbe arrivata sul posto prima possibile. Noi guardie non siamo eroi. Non siamo visibili alla luce del sole, ma ci siamo, di notte e non solo. Siamo sul territorio a frugare negli angoli più bui, con una piccola torcia in mano, che serve solo ad illuminare il necessario, quello che gli altri non vedono. Paolo. You were waiting outside for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you. From the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you. And I would always be light years away from you. Light years away from you. I thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows. Alone, you could have been right there next to me, and I'd have never known of the glory of it all. Was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you. And I would always be light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. Light years away. La storia seriale con cui stiamo chiudendo questa puntata è la storia seriale di Anna Maria, che ci ha raccontato davvero dei passaggi fondamentali della sua vita, anche molto dolorosi, ma è interessante. È davvero una storia di rinascita questa, è davvero una storia di una donna che arriva volontariamente a toccare il fondo e poi si rialza e ricomincia praticamente da zero. Ci sta raccontando che cosa ha fatto lei per sua suocera, cioè per la madre di suo marito, a cui era molto molto affezionata, e che è venuta a mancare. E la sua storia di oggi ci parla proprio di quello. Quando poi lei è scomparsa, io ho smontato casa sua, quindi mi sono proprio dedicata un mese a... Lei era sola vedova, e le sue sorelle hanno sposato degli americani, quindi erano negli Stati Uniti, quindi ho chiesto a tutti gli amici, venite e portatevi via quello che volete. E sono andata dal prete e gli ho detto se ci sono delle giovani coppie che hanno bisogno del letto nuziale, la camera, la cucina, perché l'avevamo cambiata da poco e tutto. Ho detto portatevi via tutto, perché sono cose... quasi neanche utilizzate, comunque buone. C'erano poi dei mobili vintage, delle cose un po' particolari. Portatevi via tutto, voglio che Eleonora viva negli oggetti sparsi in giro. Ho aperto i suoi armadi e ho portato i suoi vestiti ancora buoni in una casa di riposo poco distante. Non volevo buttare niente di suo, perché per me era stata una persona preziosa, che mi aveva dato tanto e avevo molta cura delle sue cose. Mi sono dedicata molto per fare in modo che si buttasse effettivamente solo quello che era davvero inutilizzabile. Un giorno mi concentro sullo sgabuzzino. Sgabuzzino è una sorta di, non lo so, un mondo a sé. In questo sgabuzzino io tiro fuori 7 ferri da stiro, 7, che andavano da quello, sai, degli anni 50 all'ultimo modello, quello super vabbone triplo coblotto. E ho guardato, ho messo sul tavolo questi 7 ferri da stiro e ho detto la vita di una persona in 7 ere geologiche, nel senso declinate da una tecnologia domestica. Nella casa c'erano i ricordi del marito, giornalista, c'erano i ricordi dei figli, le coppe che aveva preso mio cognato, giocatore di rugby, i papiri di laurea dei nipoti più grandi e c'erano delle foto di tutti, ma non c'era niente di suo. Lei era le cose che aveva cucinato, era i figli che aveva accudito, era il marito che aveva seguito, o il vecchio cane che la seguiva ovunque. Io non mi riconoscevo in una donna di casa e basta, ma alla fine quale sarebbe stata la mia declinazione, invece? Ci pensai. Comunque i lavori che avevo fatto, per quanto diversi, non erano mai stati una mia scelta. Qualcuno mi aveva detto che avrei dovuto farli, che era il mio compito, che come donna e madre di famiglia quelli erano i miei ruoli e io c'ero stata fino a quel momento. E quindi ho chiesto ai miei familiari, ho detto voi mi mantenete per un anno perché io vorrei entrare in una cucina professionale e mettermi alla prova. E chiudiamo qui anche questa puntata di Linee d'Ombra con tutte le storie che vi abbiamo raccontato, con le storie che potete riascoltare in podcast se e come e quando volete, ma potete anche soprattutto mandarci le vostre storie. Linee d'Ombra, @radio24.it per mandarcele sia storie che hanno a che fare con un confine, sia storie di diari, i vostri diari di questi giorni così particolari. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che fanno questo programma, Anita Panizza, Mauro Pescio, Luca Micheli e Paolo Corleoni, ciascuno grosso modo da casa sua. per quanto è possibile al lavoro per produrre questo piccolo programma che per un'ora al giorno vi tiene compagnia e vi porta, spero, lontani dalle notizie di tutti i giorni, lontani anche un pochettino da casa vostra. Ora diamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!